Allora, raccontare il problema non è semplice, nel senso che ce lo dovrebbero spiegare gli addetti ai lavori, ma non ce lo sanno spiegare. Ed è un fatto molto vergognoso, perché quei servizi costano allo Stato, in quanto sono imprese che vincono gare d'appalto, e non sono stati in grado di poter dare una risposta a più di 700.000 precari che hanno affidato il loro destino lavorativo a questa domanda. Il sistema già non sta funzionando nelle segreterie per immagazzinare tutte le domande prodotte. Quindi anche quello è un problema, perché lì ci sono errori di punteggio che ovviamente causeranno un contenzioso successivo. Ma il blocco del modello B è un fatto ancora più grave, perché doveva essere la procedura più semplice, e di fatto anche stamattina sto ricevendo molte telefonate e molte segnalazioni che il sistema è in tilt. Quindi è chiaro che il sistema non è stato creato per rispondere a quello che era il mandato delle domande. Ci sono degli errori di fondo a cui capisco che adesso porre rimedio è tardi, ma non possono pensare di modificare le regole. Questo per noi è un fatto importante. Le graduatorie devono essere pronte per l'inizio dell'anno scolastico. C'è una data di scadenza, giusto, che è il 25 luglio? Allora, c'è una data di scadenza che è il 25 luglio, che è quella in cui le scuole dovrebbero aver terminato di selezionare le domande e quindi produrre delle graduatorie provvisorie. È chiaro che il 25 luglio tutto questo non sarà possibile, ed è chiaro anche non sono state date delle regole a chi fa questo lavoro, perché all'interno delle scuole non c'è una specializzazione per poter immagazzinare i dati delle domande. Avrebbero dovuto fare gli uffici scolastici questo lavoro, perché non è compito delle segreterie delle scuole. È che avete avuto modo di contattare il MIUR e capire? Sì. Siamo stati anche a una riunione in cui ci hanno detto che tutto era a posto, che tutte le segnalazioni che avevamo fatto erano state aggiustate. Di fatto, da quella riunione in poi la situazione è peggiorata giorno per giorno, e ci sembra proprio fuori dalla grazia di Dio che possa esserci un errore così madornale da mettere in ginocchio un ministero intero, perché oltretutto noi abbiamo anche altre istanze online, per esempio quelle delle assegnazioni provvisorie, e anch'esse stanno funzionando a singhiozzo. Quali possono essere le conseguenze, i rischi di questo malfunzionamento? Allora, per quel che riguarda le domande di rinnovo delle graduatorie di istituto, i rischi sono quelli che all'inizio della scuola le graduatorie non sono pronte, e quindi, non essendo pronte, devono fare un provvedimento che renda ancora esigibili le vecchie graduatorie. Però noi abbiamo un problema in molte città del nord, ma anche in alcune del centro nord, dove le vecchie graduatorie sono esaurite, e quindi le scuole non si trovano nella condizione di poter chiamare gli aventi diritto. Quindi, da una parte avremo delle chiamate fino all'avente diritto, con il solito rimbalzo di supplenze che mettono in discussione il piano dell'offerta formativa delle scuole, ma dall'altra rischiamo anche la chiamata dalla messa a disposizione che i dirigenti ricevono da docenti che si sono laureati e che ovviamente non possono stare ancora in una graduatoria e che quindi presentano il loro curriculum ai dirigenti. Questo per noi è inaccettabile, perché la graduatoria è un percorso di trasparenza. Rendere esigibili le messe a disposizione significa che questa trasparenza non c'è più. Dal punto di vista dei lavoratori, quindi il loro futuro potrebbe essere incerto fino all'inizio dell'anno scolastico? Potrebbe essere incerto fino all'inizio dell'anno scolastico. Sottolineo che c'è un fatto sociale di grande importanza, che le domande sono state più del doppio di quelle che si preventivavano, più di 700.000, e che le nostre strutture ci segnalano che la maggior parte di queste persone erano professionisti, moltissimi architetti, moltissimi ingegneri, moltissimi psicologi e quant'altro, quindi gente che non trova il suo lavoro e che affida alla scuola la speranza di una risposta lavorativa. Un dato sociale molto grande. Noi, quando ci fu il concorso Profumo nel 2012, riuscimmo a fare anche uno screening, perché già lì, l'anno dopo della crisi, era evidente che la scuola diventava il rifugio, un peccatorum di tutti quelli che perdevano posto in un'altra attività lavorativa. Adesso vediamo se anche questa volta riusciremo un po' a parcellizzare il numero di architetti, avvocati, ingegneri, farmacisti che hanno fatto domanda alle scuole. Il termine del 25 luglio voi chiedete che venga posticipato? Che venga posticipato, ma che non metta in discussione ovviamente l'esigibilità delle graduatorie quando l'anno scolastico inizierà.